salario minimo, che però ha un tempo di discussione enorme, noi non possiamo più aspettare, ci sono i morti sul lavoro, c'è la mancanza di assicurazione di diritti per tutti, e soprattutto in un quadro non regolamentato c'è la vendetta delle piattaforme che ci stanno peggiorando le condizioni soltanto perché noi le abbiamo osate sfilare per chiedere più diritti. Glovo è un esempio, e stanno peggiorando anche la dinamica di confronto con i riders. Hanno chiuso lo sportello quando noi abbiamo protestato, hanno detto che incontravano il comune, non lo stanno incontrando, non sappiamo più niente. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo un peggioramento molto forte. Noi vogliamo essere riconosciuti come lavoratori, e per questo in varie città italiane scioperiamo contro Glovo. È una novità riuscire a coordinarlo su scala nazionale per un giorno, uno sciopero. Ci sono state anche iniziative comuni, ma chiaramente è difficile farlo su uno stesso giorno. Per la prima volta da Roma a Milano, a Catania, a Torino, a Bologna c'è una consapevolezza che Glovo sta sfruttando, sta peggiorando, e bisogna dare una risposta unitaria il più possibile. Lombardo tipo non ha ricevuto risposte da Glovo, e questo sappiamo che ci sono piattaforme che, non applicando la carta, non applicando gli standard, oggi inquinano tutto il mercato. Noi ciononostante siamo riusciti ad ottenere un aumento su Sniam, che è la piattaforma firmataria, e da questo punto di vista cercheremo di migliorare sempre e di portare un conflitto invece dove le aziende non vogliono dialogare, non vogliono migliorare le nostre condizioni. Su questo aggiungo una cosa. Quindi il famoso euro, no? Quell'euro in più, che comunque è frutto anche quello delle lotte, non è nato dal caso. Aggiungo una cosa su questo che diceva Nicola, che ovviamente noi facciamo pressione anche al comune, in particolare all'assessore Lombardo, affinché appunto vada avanti rispetto alla convocazione delle piattaforme che non hanno firmato la carta. Nello specifico su Glovo, appunto, nell'ultimo mese qua a Bologna abbiamo fatto 3 scioperi, l'occupazione dello sportello, varie mobilitazioni. Lombardo aveva annunciato che aveva contattato Glovo e ci sarebbe stato un incontro. Questo incontro però ad oggi non è, come dire, ufficializzato, non è calendarizzato, non sappiamo più niente, e quindi per questo chiediamo al comune di riprendere in mano la cosa e a più presto di fissare un incontro in primis con Glovo e poi con le altre, ovviamente incontro a cui devono partecipare le rappresentanze dei lavoratori, altrimenti non ha senso. Chiaramente sappiamo che il comune non ha, è il problema in cui ci siamo dibattuti finora, degli strumenti precisi. Una cosa che chiediamo al comune di fare come esempio: abbiamo visto che è stato approvato un nuovo regolamento su Deor, che dà sgravi fiscali comunque sul Deor a quei locali che si impegnano a combattere la precarietà al loro interno. Una battaglia giusta, perché la nostra battaglia contro la precarietà è una battaglia di tutti, quindi siamo contenti se si andrà a migliorare la situazione di camerieri, baristi e quant'altro. Però pensiamo che questo sconto fiscale su Deor deve valere soltanto per quei locali che si appoggiano per le consegne a piattaforme rispettose della Carta di Bologna e di standard minimi di diritti. Noi chiediamo al comune di fare questa cosa come ulteriore pressione su Glovo e sulle altre multinazionali del food delivery, che stanno facendo solo competizione al ribasso, inquinando la nostra economia e i nostri diritti. E con le varie forze politiche bolognesi non stiamo parlando, cioè che il governo non parlate più da dicembre, però comunque, cioè, loro hanno dire. Allora, noi abbiamo un rapporto con il comune come istituzione, chiaramente, perché si era interessata al tema. Su il tema dei diritti, cioè nel senso, a noi interessa che ci si faccia carico delle promesse fatte, e quindi anche per questo che avremmo contestato il ministro Di Maio, che avrebbe dovuto venire a Bologna, diciamo, anche per l'annunciata contestazione. Non vuole essere probabilmente contestato che ha ritirato questo appuntamento. Noi ribadiamo l'invito e l'appello a fare questo decreto legge, perché noi scioperiamo contro l'azienda ma anche per il decreto legge venerdì questo.